La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con La storia e la memoria. Il radiodocumentario di questa sera, prodotto da BBC e che vi proponiamo in collaborazione con History Channel, è dedicato alla storia del denaro, in particolare alla nascita dei primi usurai e delle prime forme di credito. Li chiamavano i treni della felicità. Si trattò in realtà di una poderosa e complessa iniziativa di solidarietà umana e civile, oltre che militante, che nell'Italia dell'immediato dopoguerra riuscì ad avvicinare il sud al nord del paese in una gara di assistenza di molte migliaia di bambini che vennero sottratti alla fame e alla arretratezza con l'obiettivo di assicurare loro un futuro migliore. Ora, diversi e inediti particolari di questa bella pagina di storia nazionale ci vengono svelati in un libro di Giovanni Rinaldi dal titolo I treni della felicità, storie di bambini in viaggio tra due Italie, pubblicato da EDS con prefazione di Miriam Mafai. Un libro che raccoglie diverse e interessanti testimonianze orali degli ex bambini che ricevettero assistenza. Sono raccolte nel libro dallo stesso Rinaldi e dal regista Alessandro Piva nel documentario Pasta Nera. L'Italia che usciva dalle macerie della guerra era un paese in cui la povertà delle classi contadine e bracciantili raggiungeva livelli di grave arretratezza. Era un'Italia popolare che spesso si sostituiva alle grandi istituzioni nell'organizzazione dal basso di nuove forme di società solidale e di gestione collettiva della cosa pubblica. Pane e lavoro chiedevano a San Severo, nel Tavoliere delle Puglie, in provincia di Foggia, anche i padri dei bambini protagonisti di questa storia. Il 23 marzo del 1950, esasperati dalla fame e dalle loro condizioni di vita e di lavoro estremamente precari, manifestarono non autorizzati nelle strade del paese. Lo sciopero si trasformò in tragedia. Un morto e 180 tra uomini e donne arrestati per insurrezione contro i poteri dello Stato. 70 bambini rimasero improvvisamente senza genitori. Fu allora che prese avvio l'iniziativa, maturata tra le famiglie di ex partigiani, nella rete dei Comitati di Solidarietà Democratica. I 70 bambini di San Severo si aggiunsero alle migliaia di bambini che dal 1946 al 1952 vennero accolti nelle case di Ancona, Ravenna, Follonica, Voltana ed altre città delle Marche e dell'Emilia Romagna. 23 di marzo successe una ruina per tu bella San Severo. N'andra camera del lavoro, volevo un'uscita lì lavorato. O commissario e fratello, ne persi cervello, andò regali femminelle. Due anni dopo, tutti gli arrestati in seguito alla manifestazione di San Severo vennero prosciolti dall'accusa. Nel frattempo i loro figli avevano ricevuto assistenza e di fatto avevano trovato una nuova famiglia nel nord del paese, una sorta di adozione temporanea che fece scoprire a quei ragazzi un'altra Italia dove si mangiava tre volte al giorno e dove il gelato non era di ricotta. Le testimonianze raccolte dai sopravvissuti, che per gran parte sono ritornati nel tempo alle famiglie d'origine, ma in diversi casi sono rimasti nelle famiglie d'accoglienza, restano di grande impatto emotivo, come la storia di Rosanna che dalla ciociaria arriva con i fratelli Diego e Vincenzo a Faenza per raggiungere la sua nuova famiglia a Voltana. Questa è la testimonianza di quel che avvenne a San Severo quella mattina del 23 marzo del 1950, riportata nel libro. A parlare è una donna, Antonietta Pirro. Io, studentessa del quinto liceo scientifico, ero a pochi passi dalla scuola quando sentii gli spari. D'istinto mi recai verso la piazza del municipio. Gli scelbini si erano impadroniti della piazza e con i fucili spianati intimavano alla gente di allontanarsi. Da ragazza incosciente, per strade secondarie, riuscii ad arrivare presso Piazza Castello per cercare mio padre, ma non lo trovai. Di corsa attraversai le strade per giungere a casa. La situazione in famiglia era preoccupante per le scarse notizie. Verso le 14 si sentì il sibilo di una sirena. Molti uscirono di casa gridando «Si sono arresi!» «Due anni di carcere duro!» privazioni e sofferenze furono il prezzo pagato dai manifestanti. Forse pochi ricordano di quel 23 marzo del 1950, molti lo hanno già dimenticato. Abbiamo in linea Giovanni Rinaldi, che è autore di questo libro, bel libro, I treni della felicità, storie di bambini in viaggio tra le due Italie, pubblicato da IDS, che ha ispirato il nostro approfondimento odierno. Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitato. Ci racconti un po' com'è nata tutta questa riscoperta anche di storia orale di una pagina, di una bella pagina, potremmo definirla, di storia nazionale. Veramente una bellissima pagina, molto poco conosciuta, come tantissima storia italiana. In questo senso la storia orale è utile, perché più che andare, diciamo, alla ricerca di documenti già belli e pronti, in un certo senso li crea, incontrando, come ho fatto io per tanti anni. Ho cominciato a 23 anni a lavorare con le testimonianze, quindi incontrando le persone, registrando con il registratore, se non con la videocamera come si fa oggi, delle testimonianze che raccontavano esperienze di vita. Ho cominciato con i braccianti, con la storia del movimento bracciantile del Tavoliere di Puglia, in un libro che poi raccolse tutto questo materiale, che si chiamava La memoria che resta. Per tanti anni ho proseguito, ovviamente in maniera saltuaria, in quanto io non sono, diciamo, un accademico, non sono un professore di storia, sono un operatore culturale essenzialmente. Faccio anche altre attività e provo a miscelarle per creare, diciamo, qualcosa che possa essere comunicativamente produttivo, soprattutto nei confronti dei giovani, che spesso nei confronti della storia hanno delle remore. Quest'ultimo lavoro è nato dal mettere insieme, con l'obiettivo comune con un amico regista, Alessandro Piva, l'idea era quella finale di un documentario. Siamo andati a ritrovare uno per uno, partendo ovviamente, come sempre si fa, da un testimone che ci ha fatto scoprire questa storia eccezionale, questi bambini negli anni 50, oggi ovviamente adulti e anziani, qualcuno ovviamente non c'è più, che ci hanno raccontato esperienze che in questo senso sono diventati, proprio come lo statuto della storia orale, oggi fonti. Queste sono le mie fonti, non sono manoscritti, non sono libri, non sono cose ammuffite, sono persone vive e vegete che vivono nella società di oggi, che ci possono però raccontare esperienze probabilmente importanti anche per noi che viviamo oggi. Infatti lei nel libro ricorda, c'è un passaggio molto significativo, molto interessante, anche molto bello secondo me, di un'intervista al termine della quale l'intervistato, avendo incontrato e riconosciuto per strada altre due persone che avevano avuto la sua stessa esperienza, li ferma e li porta lui stesso da lei perché le intervisti. Quindi si è creata una sorta di catena, come dire, interessante questo. La cosa più importante quando si parla di testimonianze è che delle volte le persone apparentemente non ricordano. Noi siamo arrivati, per fare un esempio, a Lugo di Romagna, così come a San Severo, e di queste cose non ne parlava nessuno. Nel caso di Lugo di Romagna fu fatto addirittura dal comune un manifesto per sollecitare queste storie, per alcuni mesi non abbiamo avuto risposta. Poi è bastata una signora, Irma Siroli, che ha cominciato a ricordare alcune cose, alcune esperienze, lei stessa era stata un'organizzatrice, e dal chiacchierare con le amiche, dal chiacchierare col bibliotecario, si è ricreata questa apparente memoria scomparsa, segno che se non la si interroga, la memoria non sempre è già tutta bella e pronta, perché le cose che si accumulano sono tante, sembrano diventare poco importanti quelle più vecchie o quelle magari qualche volta anche le migliori, nascoste dal mare magnum della informazione, della comunicazione odierna, che delle volte sopprime le cose precedenti. Allora il lavoro di chi raccoglie una testimonianza, soprattutto in questo caso esperienze di bambini che avevano negli anni 50 6 anni, 7 anni, 8 al massimo, e quindi provare a ricordare quei frammenti di sensazioni, sentimenti, paure, traumi, momenti di gioia, che andavano però raccontati nell'insieme di una storia che non era solo personale ed era collettiva.